Benvenuti. Oggi esploriamo un'idea che mi ha affascinato da subito, quella della sartoria digitale. Ah, un concetto interessante. Sì, perché se ci pensiamo un attimo, per decenni abbiamo usato software che sono, dei veri e propri coltellini svizzeri, no? Assolutamente. Programmi enormi, monolitici. Esatto. Pensati per fare un po' di tutto per tutti, ma che alla fine finiamo per usare, che so, al 10% del loro potenziale. E a cui soprattutto siamo noi a doverci adattare. È questo il punto. Impariamo i loro menu, le loro scorciatoie, il loro modo di pensare. Il flusso di lavoro lo detta il software, non noi. Proprio così. Esatto. Ma la fonte che abbiamo analizzato oggi, un catalogo di cosiddette app universali, propone l'esatto contrario. Sono strumenti minuscoli, a volte un singolo file. Davvero? Ti preapportar. A una bottega artigiana dove ti cuciono un abito addosso. Mi piace l'analogia. La nostra missione oggi, quindi, è proprio capire cosa succede quando i nostri strumenti digitali smettono di essere universali e diventano personali. È un cambio di paradigma radicale. Si passa dall'adattamento passivo a una curatela attiva del proprio ambiente di lavoro digitale. Sono molto curiosa di vedere dove ci porta questa analisi. Allora, partiamo dalla base, dalla scrittura. Nel catalogo ci sono decine di app per analizzare e revisionare testi. Ma la cosa che mi ha colpito subito è che spesso sono in coppia. In che senso? Quasi come due facce della stessa medaglia. Da un lato, per esempio, c'è Pignoleria, che la descrizione definisce, e cito, un correttore di stile pedante e puntiglioso. Ah, già il nome è una dichiarazione di intenti. Immagino sia lo strumento perfetto per chi vuole eliminare ogni minima imperfezione, ogni possibile ambiguità. Un purista della lingua, esatto. Certo. Però subito dopo, nel catalogo, trovi il suo esatto opposto. Plain language. Che fa? Prende un testo, magari scritto in un linguaggio, che so, burocratico o accademico contorto, e lo riscrive in modo semplice, diretto, comprensibile a tutti. Ecco, questo è il primo punto fondamentale. Non si tratta più di avere un unico correttore con delle regole fisse. No. Qui la tecnologia ti fa una domanda. Come vuoi che io lavori per te? Qual è il tuo obiettivo? Giusto. Se devi scrivere un documento legale, forse Pignoleria è il tuo alleato. Se devi comunicare un'idea complessa al grande pubblico, plain language è indispensabile. Quindi la sartoria non è solo sulla funzione. No, è sull'intenzione, sullo stile. È un controllo molto, molto più profondo sul processo di scrittura. E questo controllo, guarda, diventa ancora più evidente quando si passa dalle app, diciamo, stilistiche a quelle che hanno, un vero e proprio punto di vista. Un'ideologia, quasi. Praticamente sì. Mentre leggevo, mi sono imbattuto in Capitalismo Detector. Ok. Che analizza un testo per scovare proprio la retorica capitalista, i bias ideologici. O cliché detector universal, per individuare i luoghi comuni. Certo. Fino ad arrivare a strumenti quasi satirici come Sarcastic Writer, che riscrive un testo, dandogli un tono sarcastico. Fermiamoci un attimo su questo. Questi non sono più strumenti neutrali, semmai lo sono stati. No, direi di no. Sono progettati con una lente critica specifica, un framework di analisi che è già preimpostato. Chi usa Capitalismo Detector non cerca un generico correttore. Cerca un complice. Esatto. Cerca un partner che condivida e applichi una precisa chiave di lettura del mondo. Però, sai, mi sorge una domanda. Non c'è il rischio di chiudersi in una bolla? Spiegati meglio. Se uso solo strumenti che confermano la mia visione del mondo, non finisco per rafforzare i miei pregiudizi, invece di metterli in discussione? L'obiezione è assolutamente centrale. Il rischio esiste, è concreto. Però proviamo a rovesciare la prospettiva. Ok. Forse l'idea che il software general purpose sia neutrale è sempre stata, in fondo, un'illusione. Ogni software porta con sé i valori e i bias di chi lo ha creato. Vero, questo è innegabile. Questi strumenti specializzati, invece, hanno almeno il pregio della trasparenza. Dichiarano apertamente la loro personalità, la loro agenda. La scelta diventa consapevole. Quindi non subisco un'ideologia nascosta. Appunto, ma scegli attivamente uno strumento che rispecchia il tuo modo di pensare. È un passaggio da una falsa oggettività a una soggettività dichiarata. Una soggettività che ho scoperto può essere anche puramente goliardica. Ho trovato un'app che si chiama Fabbrica di Pipponi. No, ti prego. Sì, è descritta come un generatore di pipponi magistrali, che trasforma concetti semplici in discorsi accademici prolissi e arroganti. Fantastico! Devo ammettere che mi sarebbe stata utile per scrivere certe email in passato. A chi lo dici? Ma a parte la battuta, è un esempio perfetto di come questa specificità possa arrivare fino all'intenzione satirica. Ogni strumento diventa una scelta di campo. Persino una scelta umoristica. E questa idea di uno strumento che ha una sua personalità diventa ancora più potente quando passiamo dalla semplice analisi del testo alla creazione di storie, da zero. Ah, qui entriamo in un altro mondo. Sì, perché qui la sartoria digitale non riguarda più come si scrive, ma cosa si scrive. Assolutamente. Si entra nel campo della generazione narrativa, dove le strutture a volte contano tanto quanto le parole. Esatto. E nel catalogo c'era un esempio che mi ha quasi spiazzato per la sua genialità. Fiaba Prop. Ah, conosco bene il riferimento. Vladimir Prop, le funzioni della fiaba. Proprio lui. E in pratica questa app è un generatore di fiabe che non inventa a caso, ma segue le sue 31 funzioni narrative. Incredibile. Scompone la struttura della fiaba classica nei suoi mattoni. L'allontanamento dell'eroe, il divieto infranto, l'incontro con l'aiutante magico. E ti permette di costruirne di nuove. Come se fossero dei Lego narrativi. E questo, sai, solleva una domanda affascinante sulla creatività. Cioè, la limita o la stimola? Esatto. Io, guarda, propendo decisamente per la seconda. Non è che sostituisce l'autore. No, certo. Ma gli fornisce un'impalcatura. Un motore narrativo collaudato. Per chi soffre della sindrome del foglio bianco, partire da una struttura solida può essere un catalizzatore enorme. È come dare a un musicista una progressione di accordi su cui improvvisare. Perfetto. I vincoli non spengono la creatività. Spesso la incamarano e la esaltano. Un kit di montaggio, quindi. Però non si ferma qui. Il catalogo è pieno di strumenti che non si limitano a dare una struttura neutra, ma la riempiono con un'etica, con una prospettiva precisa. È qui che lo strumento diventa quasi un manifesto. Per esempio? C'è The Colonial Storyteller, progettato per evitare attivamente stereotipi eurocentrici. O Queer Side Story, che li scrive trame classiche adottando una prospettiva queer e inclusiva. E la lista continua, immagino. Il catalogo menzionava anche Hyper Pacifist Writer IT, che riscrive i testi per rimuovere ogni traccia di violenza. Sì, e anche Storie Accoglienti, che si concentra sulla generazione di narrazioni positive su migrazione e integrazione. È incredibile. È come avere un comitato di redazione etico sempre a disposizione. Ma torno alla mia preoccupazione di prima. La bolla. Esatto. Non si rischia di creare narrazioni igienizzate, mondi su misura, dove non c'è più conflitto, non c'è più confronto con ciò che, che ci metti a disagio. Il rischio c'è. È la contropartita della personalizzazione spinta. Tuttavia, questi strumenti possono anche essere visti come attrezzi per il cambiamento culturale. In che modo? Permettono di interrogare attivamente le narrazioni dominanti che diamo per scontate. Usare The Colonial Storyteller, per dire, non significa per forza produrre la versione finale di una storia. Ah, ok. Ma può essere un esercizio, un modo per rendersi conto di quanti stereotipi involontari mettiamo nel nostro modo di raccontare. Permette di smontare il meccanismo della narrazione tradizionale e di ricostruirlo secondo valori diversi. Quindi non è solo scrivere una storia? No, è fare una dichiarazione su come le storie dovrebbero essere raccontate. Quindi più che un filtro è una lente d'ingrandimento che ci mostra i nostri stessi bias. È un'interpretazione interessante. E questo mi porta all'ultima categoria di strumenti che ho trovato, quelli didattici. Perché se si può rimodellare una storia, forse si può anche rimodellare il nostro modo di pensare. Esatto. Si passa dalla produzione di contenuti alla facilitazione di processi cognitivi. È un salto notevole. E l'esempio che mi ha lasciato, guarda, a bocca aperta è stato Socrates Room. Suona promettente. Non ti dà risposte. Ti fa domande. È descritto come un simulatore di dialogo socratico. Tu inserisci un concetto. Non so. Giustizia. E lui cosa fa? Non ti dà una definizione da Wikipedia. Inizia a interrogarti. Perché pensi che sia giusto? Puoi farmi un esempio. E se in questa situazione? E così via. Ti guida in un processo maieutico per farti arrivare a una tua definizione più consapevole. E qui, guarda, siamo di fronte a un cambio di paradigma. Totale. È vero. Pensaci, la quasi totalità dei nostri strumenti di apprendimento digitale, che siano motori di ricerca, assistenti virtuali. Certo, l'enciclopedia online. Sono tutti progettati per fornire informazioni, sono dei magazzini di dati. Appunto. Socrates Room, invece, è progettato per facilitare un processo di pensiero. Non vuole riempire la testa di fatti, ma allenare la mente a pensare criticamente. È un assistente socratico, non un maggiordomo che ti porta la risposta su un piatto d'argento. Esattamente. E anche qui la sartoria si applica a livello dell'utente. C'è una suite, MindWrite, per il brainstorming, che esiste in versione junior per i ragazzi, senior per utenti esperti e ultra per esigenze professionali complesse. Stesso strumento, ma taglie diverse, a seconda di chi lo indossa. Ha perfettamente senso. Ma l'esempio che per me riassume tutta questa filosofia è Hyper Social Story. Ah sì, quello è un caso emblematico. È un'app dedicata alla creazione di storie sociali. Il catalogo spiega che sono brevi racconti usati per aiutare la comprensione di situazioni sociali complesse. Certo. E specifica che sono spesso impiegate per persone con neurodivergenze, per esempio per spiegare cosa aspettarsi durante una visita dal dottore o il primo giorno di scuola. E questo è il perfetto esempio del bisturi contro il coltellino svizzero. Proprio così. Una funzione così specifica non troverebbe mai posto in una suite software generalista come, non so, Microsoft Office. Mai. Sarebbe considerata una funzione troppo di nicchia per un pubblico troppo ristretto. Eppure, per quel gruppo specifico di persone, uno strumento del genere ha un valore incalcolabile. È vero. È un problema reale per una comunità specifica. Perfetto. Senti, prima di tirare le somme, c'era una nota tecnica all'inizio del catalogo che mi ha incuriosito parecchio. Dimmi. Diceva: molte delle app di narrazione e scrittura richiedono un'istanza locale di Ollama con un LLM attivo. Ora, a parte il tecnichese, cosa significa questo per chi usa questi strumenti? Significa qualcosa di molto, molto importante. In parole semplici, l'intelligenza artificiale che fa funzionare queste app, il motore che genera i testi, non si trova su un server remoto di una grande azienda tecnologica. Ok. Gira direttamente sul computer dell'utente. Ok, quindi l'IA è a casa mia, non in California. A parte la privacy, che mi sembra ovvia, cambia qualcosa nel modo in cui uso lo strumento? È più lento? Meno potente? Ottima domanda. Potrebbe essere leggermente più lento, a seconda del computer, e forse non ha accesso alla potenza di calcolo dei modelli più giganteschi. Ma il vantaggio va ben oltre la privacy. È una questione di sovranità e controllo. Sovranità, interessante. È la differenza tra scrivere i propri pensieri in un diario chiuso a chiave, in un cassetto, oppure scriverli su un post-it in una bacheca pubblica in ufficio. Chiaro. Con uno strumento locale, tutto resta nel tuo cassetto. I tuoi dati, i tuoi testi, le tue idee non vengono usati per addestrare modelli di terze parti. C'è una barriera tecnica un po' più alta, certo, ma è una scelta che si sposa perfettamente con la filosofia di autonomia di questi strumenti. Non solo l'abito è su misura. Ma anche il filo e l'ago sono tuoi, esatto. Quindi, tirando le fila di questo viaggio, cosa ci portiamo a casa? Siamo partiti da software coltellino svizzero e ci siamo ritrovati in una cassetta degli attrezzi piena di bisturi. Ognuno perfetto per un singolo taglio. Sì. Abbiamo visto strumenti per scrivere, che hanno un'ideologia, per creare storie che incarnano valori precisi e per imparare a pensare invece che a memorizzare. Se colleghiamo tutti i punti, emerge un'immagine affascinante del futuro del software. Un futuro in cui l'utente non adotta più passivamente un grande programma monolitico, ma diventa un curatore attivo del proprio ecosistema di strumenti. Giusto. È una frammentazione, non c'è dubbio, ma è una frammentazione intenzionale, mirata. Questo porta a una maggiore autonomia, a un maggiore potere, permettendo di creare un ambiente di lavoro digitale che non solo è più efficiente, ma che ci assomiglia di più. Esattamente. Un ambiente che rispecchia fedelmente le esigenze, il flusso di lavoro e, come abbiamo visto, persino i valori di chi lo usa. Un ambiente di lavoro che finalmente ci somiglia. Proprio così. E questo ci lascia con la domanda che ci siamo posti in forme diverse durante tutta la nostra conversazione. Se la prassi del software general purpose ci ha in qualche modo omologati, no? E rendendoci tutti utenti simili dello stesso strumento. Certo. Cosa succederà quando ognuno di noi avrà una cassetta degli attrezzi digitali completamente personalizzata? I nostri modi di pensare e creare diventeranno davvero più unici e divergenti? O rischieremo semplicemente di isolarci ancora di più, ognuno all'interno della propria perfetta nicchia su misura?